Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Big World, io sono Fabiola. Questa è la puntata numero 16 di A Tavola con Fabiola. La ricetta di oggi è sformato di formaggio di capra. Ingredienti per 4 persone: 200 g di formaggio, 80 g di ricotta, 50 g di olive nere snocciolate, 3 cucchiai di olio extravergine di oliva, un peperone a pezzi, 2 pomodori maturi pelati, basilico, 1 scalogno, sale e pepe quanto basta. Preparazione: tritate il basilico e le olive, foderate in uno stampo con pellicola trasparente e distribuite sul fondo le olive tritate. Lavorate con un cucchiaio di legno il formaggio di capra e la ricotta fino ad amalgamarli bene. Unite il basilico, il sale e il pepe. Versate l'olio mescolando continuamente. Mettete in uno stampo il composto ottenuto, premetelo bene con un cucchiaio e mettetelo in frigorifero. Per la salsa, mettete lo scalogno in una casseruola. Unite il peperone e il pomodoro a dadini, sale e pepe e un mezzo bicchiere di acqua. Fate cuocere per 30 minuti con il coperchio. Passate il composto in un passino e versatelo in una salsiera. Al momento di servire, capovolgete lo stampo su un piatto da portata e sformate il composto di formaggio. Staccate la pellicola e servite accompagnandolo con la salsa. Buon appetito! I vini consigliati per questa ricetta sono Dolcetto del Piemonte servito a 18 gradi, Rosso delle Colline Lucchesi servito a 18 gradi. Buon appetito! Questa era la ricetta numero 16 di A Tavola con Fabiola. Questa è Radio Big World e io sono Fabiola e vi do appuntamento alla prossima.